qualcuno? C'è qualcuno in ascolto su 10? Che è avanti? Ciao Marco, come va? Come sempre, oh Marco, macchina sì, a mare te ne sei andato. Almeno tu stai uscendo per quello. Io non ero per commissioni, sto uscendo per dopo. Va bene, dai. Buon divertimento allora, fatti una bella passeggiata lì. Dove sei? Verso Pratamona? Mi hai perso? Ma adesso mi senti però. Ah, ho capito Marco, ho capito, vabbè. Buona passeggiata allora. Tutti in stand-by sono, tutti quanti. Vabbè, cosa ci vuoi fare? D'altronde così. Adesso già mi senti di sicuro bene. Ok, ciao Marco.